Capitolo 7. Il patrimonio del signor Bennet consisteva quasi esclusivamente in una proprietà terriera che gli rendeva 2.000 sterline all'anno, ma sfortunatamente per le sue figliole, quella proprietà era vincolata in mancanza di eredi maschi a un lontano parente. La sostanza della moglie, benché era gradevole in rapporto alle sue origini, poteva a stento supplire alla deficienza di quella del marito. Il padre della signora Bennet era stato procuratore a Meryton e le aveva lasciato 4.000 sterline. Aveva una sorella, sposata a un certo signor Phillips, che era stato impiegato nello studio del padre e gli era succeduto, e un fratello rispettabile uomo d'affari di Londra. Longbourn distava da Meryton soltanto 1 miglio, distanza comodissima per le signorine, che per solito vi si sentivano attratte 3 o 4 volte la settimana, onde rendere omaggio alla zia e al negozio di modista proprio di rimpetto. Le due minori delle Bennet, Catherine e Lydia, erano particolarmente assidue in quei doveri di cortesia. Avevano meno da pensare delle loro sorelle e, in mancanza di qualcosa di meglio, una passeggiata a Meryton si rendeva necessaria per divertirle nelle ore mattutine e fornire loro argomento di conversazione per la sera. E per quanto, povera di novità sia in generale la campagna, le due sorelle si impegnavano sempre di apprenderne qualcuna dalla zia. In quel momento, anzi, ne erano ben provviste. Traboccavano anzi di beatitudine per il recente arrivo nei dintorni di un reggimento di milizia che avrebbe dovuto trattenersi tutto l'inverno e il cui comando sarebbe stato a Meryton. Ora, le visite alla signorina Phillips fruttavano loro le notizie più interessanti. Ogni giorno imparavano qualche cosa di nuovo sui nomi degli ufficiali e i loro legami di parentela. Non passò molto tempo che già sapevano dove erano alloggiati e finalmente incominciarono a conoscere gli ufficiali stessi. Il signor Phillips si recò a far visita a ciascuno di essi e con questo dischiuse per le nipoti una sorgente di felicità fino ad allora non mai conosciuta. Non sapevano più parlare d'altro che d'ufficiali, e persino la cospicua sostanza del signor Bingley, cui bastava fare cenno per vedere la loro mamma, tutta rianimata, aveva perduto ogni interesse ai loro occhi in confronto all'uniforme di un alfiere. Una mattina, dopo aver ascoltato le loro fusioni su questo argomento, il signor Bennet constatò freddamente: «Per quanto posso arguire dai vostri discorsi, dovete essere due delle più grandi sciocchine del paese. Ne ho già avuto il sospetto altre volte, ma ora ne sono persuaso». Catherine, sconcertata, non rispose. Lydia, invece, con la massima indifferenza, continuò ad esprimere la propria ammirazione per il capitano Carter, nonché la speranza di vederlo nel corso della giornata, poiché l'indomani mattina si sarebbe recato a Londra. «Mi sorprende, caro», disse la signora Bennet, «che tu sia così disinvolto nel giudicare sciocche le tue figliole. Se desiderassi avere scarsa opinione dei figlioli di qualcuno, non sarebbe mai dei miei. Se ho delle figlie grulle, devo augurarmi di accorgermene sempre». «Già, ma il caso vuole che siano tutte molto intelligenti. Mi lusingo di credere che questo sia l'unico punto sul quale tu e io non siamo d'accordo. Avevo sperato che le nostre vedute potessero coincidere in ogni particolare, ma sono costretto a dissentire da te al punto da ritenere le nostre due figlie minori delle scioccherelle non comuni. Io, caro Bennet, non vorrei pretendere, spero, che ragazze della loro età abbiano il buon senso dei loro genitori. Lascia che invecchino come noi e poi vedrai che non si occuperanno di ufficiali più di quanto non si faccia noi. Ricordo il tempo in cui andavo pazza anch'io per un uniforme scarlatta e, a dire il vero, in fondo mi piace ancora adesso. E se per caso un bel colonnello giovane con 5 o 6.000 sterline all'anno dovesse chiedere una delle mie figliole, non sarei certo io a dirgli di no. Mi è parso che il colonnello Forster l'altra sera da Sir William stesse molto bene nella sua uniforme. Mamma! Esclamò Lydia. Dice la zia che adesso il colonnello Forster e il capitano Carter non vanno più così spesso dalla signorina Watson come quando sono arrivati. Ora li vede sovente nella libreria Clark. La signora Bennet fu impedita di rispondere dall'entrata di un domestico in livrea che recava un biglietto per la signorina Bennet. Veniva da Netherfield e il servo aspettava risposta. Gli occhi della signorina Bennet si illuminarono di gioia e continuava a domandare mentre la figlia era intenta alla lettura. «E allora, Jane? Chi te lo manda? Che cosa dice? È lui? Che cosa dice? Avanti, Jane! Spicciati a raccontare! Sbrigati, amor mio!» «È da parte della signorina Bingley», disse Jane e poi lesse ad alta voce. «Mia cara amica, se non sei abbastanza misericordiosa da pranzare oggi con Louise e con me, correremo il rischio di odiarci per il resto della nostra vita. Perché un'intera giornata di tête-à-tête fra due donne non può mai concludersi senza un bisticcio. Vieni al più presto possibile dopo aver ricevuto questo biglietto. Mio fratello e i signori saranno a pranzo con gli ufficiali. Sempre tua, Caroline Bingley. Con gli ufficiali! Esclamò Lydia. Come mai la zia non ce ne ha parlato? A pranzo fuori, disse la signora Bennet. Che peccato! Posso avere la carrozza? Domandò Jane. No, cara, è meglio che tu vada a cavallo perché pare che voglia piovere. E poi devi fermarti tutta la notte. Codesso sarebbe un buon piano, osservò Elizabeth, se si fosse sicuri che non le offrano di rimandarla a casa. Oh, ma i signori avranno preso il tiro a quattro del signor Bingley per andare a Meryton e gli Hurst non hanno cavalli per il loro. Preferirei molto andare in carrozza. Ma cara, il babbo non può fare a meno dei cavalli, ne sono certa. Ce n'è bisogno alla fattoria, non è vero, Bennet? Alla fattoria ne hanno bisogno molto più spesso di quanto io non possa lasciarli loro. Ma se oggi li ha da lasciar loro, disse Elizabeth, si farà come dice la mamma. E riuscì finalmente a estorcere al padre la conferma che i cavalli erano proprio impegnati e a Jane non rimase perciò altra scelta che di andarsene a cavallo. La madre l'accompagnò fin sulla porta con molti felici presagi di brutto tempo. Le sue speranze non andarono deluse. Jane se n'era andata da poco che già diluviava. Le sorelle stavano un po' in pensiero per lei, ma la madre era gongolante. La pioggia continuò per tutta la sera senza interruzione. Jane non sarebbe certo potuta tornare. «Guarda un po' che felice idea mi è venuta», ripeté più di una volta la signora Bennet, come se avesse voluto ascriversi tutto il merito di quel gran piovere. Tuttavia, fino all'indomani mattina, non ebbe modo di apprendere quanto luminosa fosse stata la sua trovata. Avevano quasi finito di far colazione quando un domestico di Netherfield portò questo biglietto per Elizabeth. «Mia carissima Lizzie, non mi sento affatto bene stamane, il che credo va imputato al fatto di essermi inzuppata ieri fino alle ossa. I miei cortesi amici non vogliono neppur sentir parlare del mio ritorno a casa finché non mi senta meglio. Insistono, anzi, perché mi faccia vedere dal dottor Jones. Non allarmatevi dunque se sentiste che è stato a trovarmi. Tranne un po' di mal di gola e mal di testa, non ho nulla di speciale. Tua, eccetera, eccetera». «Benone, cara mia», disse il signor Bennet quando Elizabeth ebbe finito di leggere forte. «Se a tua figlia dovesse venire una malattia seria, se morisse, sarebbe una consolazione sapere che tutto fu dovuto alla caccia data al signor Bingley, dietro ordine tuo». «Non ho appunto timore che muoia, non si muore di piccoli raffreddori. Le prodigheranno tutte le cure possibili. No, no, finché rimane là non mi preoccupo. Andrei piuttosto a trovarla, se potessi avere la carrozza». La carrozza non si poteva pensare di averla, ed Elizabeth, che stava veramente in pena, decise di andare lei a trovare la sorella. Ma siccome non era cavallerizza, non le restava altra alternativa che quella di andare a piedi, e manifestò la propria decisione. «Come puoi essere tanto sciocca?» esclamò la madre, «da pensare a una cosa simile con tutto questo fango. Non sarai in stato di presentarti arrivando». «Sarò comunque in stato di vedere Jane, che quanto mi sta a cuore. Sarebbe un'insinuazione per me, Lizzie. Perché mandi a prendere i cavalli?» domandò il babbo. «No, davvero. Non mi spiace affatto di fare una passeggiata. Quando c'è un motivo la distanza non è nulla. Non sono che 3 miglia. Sarò di ritorno per l'ora di pranzo». «Ammiro la prontezza del tuo spirito di sacrificio», osservò Mary, «ma ogni impulso sentimentale dovrebbe essere guidato dalla ragione e a parer mio lo sforzo dovrebbe essere sempre in diretta proporzione dello scopo che ci si prefigge». «Ti accompagneremo noi fino a Meryton», dissero Catherine e Lydia. Elizabeth accettò la loro compagnia e le 3 fanciulle si avviarono. «Se ci spicciamo», disse Lydia mentre erano per via, «riusciremo forse a vedere ancora un momentino il capitano Carter prima che se ne vada». A Meryton si separarono. Le 2 minori si diressero al quartierino della moglie di uno degli ufficiali ed Elizabeth proseguì per la sua strada da sola, a passo svelto, attraversando un campo dopo l'altro, scavalcando steccati e saltando pozzanghere con febbrile impazienza, finché giunse in vista della casa. Aveva le caviglie stanche, le calze infangate e il viso rosso di caldo per la camminata. Fu introdotta nella saletta della colazione, dove erano riuniti tutti all'infuori di Jane e dove il suo apparire suscitò notevole sorpresa. che così di buon mattino avesse fatto 3 miglia a piedi con un tempaccio del genere tutta sola sembrava quasi incredibile alla signora Hurst e alla signorina Bingley. Ed Elizabeth ebbe la netta sensazione che la disprezzassero. Tuttavia la ricevettero con molte belle maniere e nel tono del fratello Elizabeth avvertì qualcosa che andava al di là delle semplici belle maniere. C'era gaiezza e benevolenza. Il signor Darcy parlò assai poco e il signor Hurst non parlò affatto. Il primo era diviso fra l'ammirazione del bel colorito che tanto moto aveva conferito a quella carnagione e il dubbio se la circostanza ne giustificasse sufficientemente la lunga passeggiata solitaria. Il secondo pensava unicamente alla colazione. Alle sue domande circa la salute della sorella non ottenne risposte granché tranquillanti. La signorina Bennet aveva dormito male e, sebbene alzata, era febbricitante e non si sentiva di lasciare la camera. Elizabeth fu lieta di farsi subito accompagnare da lei e Jane, con soltanto il timore di destare apprensione o fastidio, aveva trattenuto dall'esprimere nel suo biglietto quanto ardentemente desiderasse quella visita. Vedendola entrare, si rasserenò tutta. Però non era in grado di sostenere una lunga conversazione e quando la signorina Bingley le lasciò sole, non riuscì a pronunciare che qualche espressione di gratitudine per la straordinaria cortesia cui veniva fatta segno. Elizabeth si occupò silenziosamente di lei. Consumata la colazione, furono raggiunte dalle sorelle Bingley ed Elizabeth, quando vide tutta la sollecitudine affettuosa con cui trattavano Jane, cominciò persino a trovarle simpatiche. Venne lo speziale e, dopo aver esaminato la malata, dichiarò, come era da aspettarsi, che aveva preso una forte infreddatura e che bisognava fare di tutto per domarla. Consigliò a Jane di tornare a letto e promise di mandarle delle pastiglie. Il consiglio fu prontamente seguito, già che i sintomi febbrili aumentavano e l'emicrania si andava facendo più acuta. Elizabeth non lasciò la stanza neppure un momento, né le altre signore ne rimasero a lungo assenti, poiché gli uomini erano fuori, non avevano, per vero dire, altro da far fuori di lì. Quando suonarono le 3, Elizabeth si sentì in dovere di tornare via e molta malincuore manifestò la propria intenzione. La signorina Bingley le offerse la carrozza e non sarebbe occorso che un po' di insistenza per fargliela accettare, quando Jane dimostrò un tale dispiacere all'idea di separarsi dalla sorella che la signorina Bingley dovette cambiare l'offerta della carrozza in un invito a rimanere a Netherfield, almeno per il momento. Elizabeth vi acconsentì con animo grato e a Longbourn venne inviato un domestico che informasse la famiglia della decisione presa e riportasse indietro un cambio di vestiti. Capitolo 8. Alle 5 le due signore si ritirarono per vestirsi e alle 6:30 Elizabeth fu chiamata a pranzo. Alle cortesi domande che le piovvero addosso e fra le quali ebbe la soddisfazione di notare l'incomparabile sollecitudine del signor Bingley, non poté fornire risposte particolarmente favorevoli. Jane non stava punto meglio. A quella notizia le sorelle espressero reiteratamente il loro vivo rammarico, ripetendo che un forte raffreddore era una cosa detestabile e che loro stesse non potevano sopportare d'essere ammalate. Dopodiché non ci pensarono più. E la loro indifferenza per Jane, quando proprio non l'avevano davanti agli occhi, restituì ad Elizabeth la soddisfazione di tutta la sua antica antipatia. In verità, di tutta la compagnia non c'era che il fratello che la potesse considerare con un certo compiacimento. La sua apprensione per la salute di Jane era evidente, le sue attenzioni per lei apprezzabilissime, e le impedivano di sentirsi quell'intrusa che credeva di apparire agli occhi degli altri. All'infuori di lui, nessuno le badava granché. La signorina Bingley era tutta presa dal signor Darcy, e poco meno lo era sua sorella. Quanto al signor Hurst, il vicino di tavola di Elizabeth, era un uomo indolente, che viveva soltanto per mangiare, bere e giocare alle carte, e che avendo scoperto che i gusti della sua vicina propendevano per un piatto semplice piuttosto che per un ragù, non ebbe poi più nulla da dirle. Terminato il pranzo, Elizabeth tornò subito da Jane e la signorina Bingley cominciò a tagliarle i panni addosso non appena ebbe lasciata la stanza. Sentenziò che aveva una pessima educazione. Un misto di alterigia e di sfacciataggine, che non sapeva sostenere una conversazione, che mancava di stile e di gusto e che non era bella. La signora Hurst era dello stesso parere e rincarò la dose. Insomma, non ha proprio nessuna qualità all'infuori di quella di essere un'eccellente camminatrice. Non dimenticherò mai la sua apparizione di stamani. Sembrava una mezza selvaggia. Davvero, Luisa, non so come abbia fatto a mantenermi seria, ma che balordaggine codesta idea di venire. Che bisogno aveva di mettersi a battere la campagna perché sua sorella era raffreddata? Con quei capelli così scarmigliati, così in disordine, Già? E la sottoveste allora? Spero che tu l'abbia vista la sottoveste, con un orlo di fango alto 6 pollici almeno, e la gonna fatta scendere apposta per coprire senza riuscirci. Può darsi che il tuo quadro sia molto esatto, Luisa, disse Bingley, ma con me è stato sprecato. Mi è sembrato che la signorina Elizabeth Bennet fosse notevolmente bella questa mattina quando è entrata in sala. La sottoveste infangata mi è assolutamente sfuggita. Ma lei l'avrà osservata, signor Darcy, ne sono certa, fece la signorina Bingley, e oserei dire che non desidererebbe punto che sua sorella offrisse uno spettacolo del genere. Ah, no, di certo. Fare a piedi 3 miglia o 4 o 5, o quello che è, quelle caviglie sprofondate nel fango e sola, assolutamente sola. Che cosa pretendeva di fare? Secondo me non è che un deplorevole sfoggio di presuntuosa indipendenza, un'indifferenza per il decoro da piccola provinciale. È comunque prova di affetto fraterno molto consolante, obiettò Bingley. Temo, signor Darcy, osservò la signorina Bingley sottovoce, che questa avventura avrà alquanto temperato la sua ammirazione per quei begli occhi. Niente affatto, gli rispose. Il moto li aveva già resi più scintillanti. Seguì una breve pausa e poi la signora Hurst ricominciò. Ho la massima stima per Jane Bennet, un vero tesoro di figliola, e le auguro con tutto il cuore di accasarsi bene. Ma con genitori come quegli e relazioni così basse, temo che non ci siano per lei molte speranze. Mi pare di averti sentito dire che ha uno zio avvocato Meriton. Sì, e ne hanno un altro che sta nei dintorni di Cheapside. Questa è madornale, commentò la sorella, e tutte e due risero di cuore. Quando anche avessero tanti zii da riempire tutta Cheapside, esclamò Bingley, ciò non servirebbe a renderle un briciolo meno simpatiche. Ma è pur vero che ciò diminuirebbe di molto le loro probabilità di sposare uomini che godono di qualche considerazione in società, ribatté Darcy. A questa osservazione Bingley non rispose verbo, ma le sue sorelle si dichiararono perfettamente d'accordo con Darcy e per un po' di tempo continuarono a sfogare la loro allegria a spese del volgare parentado della loro cara amica. Lasciando il salotto, si rifugiarono però con rinnovato affetto nella camera di questa e con lei rimasero finché non furono chiamate per il caffè. Jane stava piuttosto male ed Elizabeth non volle più lasciarla fino a sera inoltrata, quando ebbe la gioia di vederla addormentata e le sembrò più opportuno che piacevole scendere a raggiungere i suoi anfitrioni. Entrata nella stanza di soggiorno, trovò tutta la compagnia intenta a giocare a mosca e fu subito invitata ad unirsi a loro. Ma sospettando che giocassero forte, Elizabeth declinò e, adducendo il pretesto della sorella, disse che per il poco tempo che poteva trattenersi giù si sarebbe divertita con un libro. Il signor Hurst la guardò sbalordito. Preferisce davvero la lettura alle carte, lei? Che strano. La signorina Lizzie Bennet, sentenziò la signorina Bingley, disprezza le carte. È una lettrice appassionata e null'altro le procura diletto. Non merito né una tale lode né una tale critica, esclamò Elizabeth. Non sono affatto una grande lettrice e molte sono le cose che mi procurano diletto. Sono sicuro che prodigarsi come fa per sua sorella la appassiona, disse Bingley, e spero che la sua gioia sarà presto accresciuta vedendola completamente ristabilita. Elizabeth lo ringraziò di cuore, poi si avvicinò a un tavolo dove erano sparsi alcuni libri. Egli si offrì subito di andargliene a prendere degli altri, tutto quanto poteva fornire la sua biblioteca. E vorrei avere una raccolta più vasta, il che tornerebbe a suo beneficio e a mio onore. Ma sono un fannullone e sebbene siano pochi, sono sempre più di quanti ne legga io. Elizabeth lo assicurò che potevano bastarle benissimo quelli che c'erano nella stanza. Mi stupisce, dichiarò la signorina Bingley, che mio padre abbia lasciato una collezione di volumi così modesta. Che splendida biblioteca ha lei a Pemberley, invece, signor Darcy. Deve essere bella per forza, egli rispose. È il frutto delle ricerche di molte generazioni. E poi lei ci ha aggiunto tanto, comprerà sempre libri. Non so spiegarmi come oggidì si possa trascurare una biblioteca di famiglia. Trascurare? Sono sicura che lei non trascura nulla di quello che può aggiungere bellezza a quella nobile dimora. Charles, quando costruirai la tua casa, vorrei che fosse bella almeno la metà di Pemberley. Me lo auguro. Ma sul serio, ti consiglierei di acquistare in quei dintorni e prenderti Pemberley a modello, per così dire. Non c'è in Inghilterra con te più bella del Derbyshire. Volentierissimo, anzi, comprerò Pemberley stessa, se Darcy la venderà. Ma io parlo di cose possibili, Charles. Pensa Parola mia, Caroline, ritengo che sia più possibile comperarsi la dimora di Pemberley che farne un'imitazione. Elizabeth era così presa da quanto accadeva che faceva poco o punta attenzione al suo libro e, lasciatolo subito da parte, avvicinò una sedia al tavolo da gioco dove si collocò fra il signor Bingley e la maggiore delle sorelle per assistere alla partita. «È molto cresciuta la signorina Darcy dalla primavera scorsa», si informò la signorina Bingley. «Sarà alta come me adesso?» «Direi di sì. Ha ormai la statura della signorina Elizabeth Bennet, seppure non è più alta». «Che voglia ho di vederla! Non ho mai conosciuto nessuno che mi abbia tanto affascinata. Che tono, che educazione! E poi tanto, tanto istruita per la sua età. Suona il pianoforte in maniera deliziosa». «Ciò che mi sorprende sempre», disse Bingley, «è che le signorine possono avere la pazienza di diventare istruite come sono tutte quante». «Tutte quante le signorine istruite? Ma caro Charles, spiegati!» «Sì, tutte, mi pare. Sanno tutte laccare un tavolino, coprire un paravento e fare delle borse a rete. Non ne conosco quasi nessuna che non sappia fare tutte queste cose e non ho mai sentito parlare di una signorina senza essere subito informato che era molto istruita. L'elenco che tu fai delle materie che formano comunemente l'istruzione femminile, osservò Darcy, è troppo vero. L'attributo di istruita si applica a molte donne che non lo meritano peraltro, che per saper fare una borsa a rete o ricoprire un paravento. Ma sono ben lontano dall'essere d'accordo con te nel tuo apprezzamento sulle signore in generale. Non posso vantarmi di conoscerne più di 5 o 6 in tutta la cerchia delle mie relazioni che siano veramente istruite. Neppure io, disse la signorina Bingley. Allora, osservò Elizabeth, il suo concetto di donna istruita deve comprendere capacità non comuni. Appunto, capacità non comuni. Ah, si capisce, esclamò la sua fedele sostenitrice. Non si può stimare veramente istruita una persona che non superi di molto la media. Una donna deve conoscere a fondo la musica, il canto, il disegno, la danza e le lingue moderne per meritare codesto attributo. E oltre a tutto ciò, deve avere un certo non so che nell'aspetto e nell'andatura, nel tono di voce, nel modo di esprimersi e di rivolgere la parola. Se no, l'aggettivo sarà meritato soltanto per metà. Deve possedere tutto questo, soggiunse Darcy, e a tutto questo deve tuttavia unire qualcosa di più sostanziale, il risultato di un affinamento spirituale derivato dalle molte letture. Non mi sorprende più che lei conosca soltanto 5 o 6 donne istruite. Mi stupisce semmai che ne conosca tante. È dunque così severa nei confronti del suo sesso da mettere in dubbio una possibilità del genere? Donne così io non ne ho mai viste. Non ho mai riscontrato tante qualità di intelletto, di gusto, di bravura e di eleganza come lei le descrive congiunte. La signora Hart e la signorina Bingley protestarono contro l'ingiustizia del dubbio implicito, assicurando entrambe che conoscevano molte donne rispondenti a una tale descrizione, ma vennero richiamate all'ordine dalla signora Hurst e dalle sue amare lagnanze per la disattenzione con la quale si seguiva il gioco. E poiché ciò pose termine a ogni genere di conversazione, Elizabeth lasciò poco dopo la sala. «Lizzie Bennet», disse la signorina Bingley quando la porta si richiuse dietro di lei, «è una di quelle signorine che tentano di farsi valere col sesso forte disprezzando il loro. E con molti uomini, vorrei dire, questa tattica riesce». «Ma secondo me è una tattica meschina, un'arte spregevole». «Senza dubbio», rispose Darcy, al quale quell'osservazione era particolarmente rivolta. «Tutte le arti che le donne si abbassano talvolta ad adoperare per adescare gli uomini sono ugualmente spregevoli. Tutto ciò che ha affinità con l'astuzia merita disprezzo». La signorina Bingley non fu così interamente soddisfatta della risposta da insistere sull'argomento. Elizabeth li raggiunse di nuovo soltanto per dire che sua sorella stava peggio e che non si sentiva di lasciarla. Bingley insistette perché si mandasse subito a chiamare il dottor Jones, mentre le sue sorelle persuase che il parere di un medico di campagna non potesse in alcun modo essere utile, suggerirono di mandare un dispaccio in città in cerca di uno dei medici più noti. Di questo ella non volle sentir parlare, ma si dimostrò tutt'altro che riluttante ad accettare la proposta del signor Bingley. Fu deciso che l'indomani, di buon mattino, si sarebbe mandato a chiamare il signor Jones, a meno che la signorina Bennet non fosse stata decisamente meglio. Bingley era inquieto e sue sorelle si dichiararono molto afflitte. Tuttavia, dopo cena, cercarono di recar sollievo alla loro disperazione cantando dei duetti mentre egli non seppe dar miglior sfogo ai propri sentimenti, che impartendo alla sua governante precise istruzioni affinché la signorina ammalata e la sorella di lei venissero fatte segno a tutte le attenzioni possibili.